Buongiorno, possiamo accomodarci? Sì, abbiamo questa benedizione di poter vivere in presenza dello Spirito Santo. Stiamo leggendo i Re, giusto? Lo stiamo leggendo? però stamattina, proprio per continuare la nostra serie, che come famiglia abbiamo preso, andremo a leggere Efesini 3. Però prima di leggere questo, io vorrei comunque fare una piccola introduzione per chi si fosse perso le altre domeniche. Allora, innanzitutto, queste lettere sono state scritte da Paolo. E Paolo è stato ad Efeso per un paio di anni, per 2 anni più o meno, dove lì era missionario, mettiamo anche questa parola, dove parlava appunto di Gesù, della rivelazione che c'è attraverso anche lo Spirito di Dio. E in Efeso, in quel tempo, c'erano diversi dei, quindi venivano adorati altri dei, quindi non c'era una città che magari accoglieva pienamente la predicazione, anzi c'era chi per incredulità appunto rifiutava quello che magari veniva dichiarato da Paolo. Eppure Paolo comunque ha continuato e molti altri invece si sono convertiti a Gesù e hanno cominciato ad essere seguaci di Gesù. E, i primi diciamo capitoli che abbiamo letto come chiesa, ci ricordiamo che nel primo abbiamo parlato che la bellezza del Vangelo, della grazia che abbiamo attraverso Gesù, dello scopo che Dio ha messo in ognuno di noi attraverso questa chiamata che ci rivolge a seguirlo. E nel secondo abbiamo parlato dell'unità, ci ricordiamo anche la scorsa domenica con Luigi e anche la mattina o la sera, vabbè, mi ricordo però, dove abbiamo parlato proprio della diversità. E nella diversità però siamo uniti, perché l'unità non vuol dire essere uniformi, tutti uguali, altrimenti sarebbe veramente un rischio, non andremo molto lontano. Invece nella diversità è che ci completiamo e che viviamo pienamente la bellezza del corpo di Cristo. E invece oggi quello che andiamo a vedere è il terzo paragrafo. E sappiamo come il terzo paragrafo invece ci parla di come, anche i primi due in realtà, di come anche Paolo ha questa missione verso gli stranieri, verso chi non appartiene, diciamo così, al popolo di Dio. Abbiamo visto nei Re che c'era una bella contrapposizione tra il popolo di Dio e il popolo che non apparteneva a Dio, ed era soprattutto per discendenza, vero? Quindi sappiamo che c'è stato il popolo di Dio che per discendenza, per eredità, ereditava di essere parte del popolo di Dio. Però già nella chiamata di Abramo, il Signore gli rivolge questa chiamata e dice ad Abramo: va via dal tuo paese, questo è scritto in Genesi, dai tuoi parenti, dalla tua casa, di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra, tutte, quindi coinvolge tutti. Non ha detto solo i popoli che sono stati discendenti di Davide o discendenti di Abramo stesso, non solo quello, ma tutte le famiglie. E ancora in Deuteronomio viene detto: amate dunque lo straniero, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Quindi questa parola la ritroviamo nel Vecchio Testamento, ma la ritroviamo anche nel Nuovo, anche in Efeso l'abbiamo trovata. Quindi questa parola straniero, nella lingua italiana, significa non appartenente. Qualcuno che non appartiene e che può essere visto anche come nemico del popolo di Dio. Qualcuno che può intaccare la vita del popolo di Dio, qualcuno che può venire contro. Lo vediamo in Re, chi era straniero, non apparteneva a Dio, poteva fare guerra al popolo di Dio. Quindi non è una, è una grande contrapposizione. Eppure il Signore già ci parlava nel Vecchio Testamento, ma ancora di più nel Nuovo, che siamo chiamati ad andare allo straniero, perché noi stessi lo eravamo. E non è semplice andare dallo straniero. Se noi pensiamo alla vita di tutti i giorni, lo straniero può essere chi non ha scelto Gesù come noi, può essere una persona vicina, un familiare, qualcuno a cui anche vogliamo bene. Quindi le sue parole, di magari ci può beffeggiare per quello che confessiamo, oppure il datore di lavoro, a scuola ci possono magari anche deridere, può diventare per noi un nemico e quindi uno straniero, giusto? Eppure il Signore ci chiama ad andare proprio a loro. E, in tutto questo vogliamo leggere insieme Efesini. Allora, io ho sottolineato dei punti in cui vorrei appunto che ci soffermassimo, però lo leggiamo tutto insieme. Per questo motivo io, Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù, per voi stranieri, senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi. Qui c'è scritto io, Paolo, il prigioniero di Cristo. Lui era, stava scrivendo nella cella, no? Però prigioniero di Cristo mi fa pensare a una forma di orgoglio, nel senso di dire io sto qua per una buona causa. Era fiero di quello che diceva, ma essere prigionieri non è che sia proprio un momento idilliaco della nostra vita. Anche nelle nostre situazioni a volte ci possiamo sentire prigionieri, eppure se lo viviamo con il Signore, se invitiamo Lui nella nostra prigione, non dico che siamo fieri della sofferenza, ma potremmo vantarcene, come anche è scritto. Perché nella sofferenza noi conosciamo che significa veramente appartenere a Lui. E quindi questa parola mi ha colpito. Quindi io, Paolo, il prigioniero di Cristo. E poi dice... nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito Santo, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui. Vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù, mediante il Vangelo, di cui io sono diventato servitore. Ancora una volta, Paolo dice io prigioniero, quindi lui acchiara la sua identità, perché sta lì, e dice io sono servitore, quindi prigioniero e servitore, secondo il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù della sua potenza. E ancora, a me dico che sono il minimo tra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascoste in Dio, il creatore di tutte le cose, per mezzo di Gesù Cristo. E anche qui lui dice, io sono il minimo tra tutti i santi. E quindi... quello in cui io ho voluto appunto mettere un accento è stato il fatto che Paolo ha ricevuto una chiamata. Lui era consapevole del perché era in prigione e quindi l'ha vissuta con lui essendone fiero, così la leggo io, no? Prigioniero di Cristo. Poi dice servitore, perché in tutto questo io vi sto scrivendo perché voglio servire la Chiesa, voglio servire voi. E va avanti nella sua consapevolezza, appunto della sua chiamata, dicendo sono il minimo tra tutti i santi. Non si è vantato, io sono venuto 2 anni fa, vi ho detto queste cose, e magari adesso vi devo riprendere, oppure vi devo dire necessariamente qualcosa per farvi agire meglio. No, lui è rimasto fedele alla chiamata. Io sono servitore. Io sono prigioniero, non agisco per mezzo mio, ma agisco perché sono stato chiamato dal Signore a farlo. E sono il minimo tra tutti i santi. I santi chi sono? Coloro che vivono un percorso da seguaci di Cristo, di santificazione. Lui ci rende santi, non perché io sono brava a fare tante cose e mi riempio di buone parole. No, perché la mia condotta, la mia vita dipende da Gesù. Quindi il mio percorso di santificazione è pari alla mia relazione con Gesù. È Lui che mi rende santa. E Lui dice, io sono il minimo tra tutti i santi, cioè quello che sto facendo è il minimo per voi, non vi do quello che ho. E quindi mi piace anche questo aspetto di Paolo, perché rimane umile. Non dice io ho fatto questo, che a volte quando siamo stanchi oppure quando magari pensiamo a delle tribolazioni, diciamo, ma Signore, sono in prigione, e con tutto quello che ho fatto per te, perché sto qua? E invece lui era consapevole che seguire Gesù comportava delle conseguenze, ma lui era pienamente felice della volontà di Dio per la sua vita, nonostante tutto. E quindi questa chiamata mi fa pensare a quel verso che dice meno di me, più di te. Ma quanto è difficile viverlo per noi oggi. Ogni giorno dire oggi Signore meno di me e più di te. Non è semplice come preghiera, vuol dire morire a noi stessi, morire del nostro diritto di aver ragione, della nostra giustizia personale, del dolore che ci hanno causato, perdonare. Il Signore ci chiede delle cose che sono illogiche, eppure se noi le viviamo col suo spirito, questo ci porta a libertà, paradossalmente. Invece il nemico ci vuol far vedere che non è così. Ma nel momento in cui ci fidiamo di Lui, allora sperimentiamo che cosa significa essere prigionieri di Cristo con orgoglio. E quindi quello che mi fa pensare questa storia è che Paolo aveva una testimonianza, no? Lo conoscevano la sua storia. Alcuni forse non li aveva ancora conosciuti, perché questa lettera le scrive dopo che è stato in missione ad Efeso, e forse gli è stato raccontato. E allora ho pensato un po' alla mia testimonianza, forse non molti di voi la sanno, però io sono cresciuta in una famiglia che è evangelica, e quella chiesa è stata fondata dopo la Seconda Guerra Mondiale, da degli americani che sono venuti in missione qui. E c'era questa americana di nome Evelina, che adesso non c'è più, in cui io mi rivedevo tantissimo, l'ho vista proprio come un esempio, perché lei andava verso le persone che non stavano bene, parlava di Gesù sempre, aveva rinunciato a sposarsi, che può sembrare una banalità, però quando ero piccola dicevo, ma questo non si è sposato per venire qui a parlare di Gesù? Per me era comunque qualcosa di strano quando ero piccola. La sua vita mi ha parlato di Gesù. Lei era perfetta? No. Però aveva quel profumo di Gesù in quello che faceva, in quello che diceva. E quindi ho pensato, oltre alle lettere di Paolo che hanno caratterizzato sicuramente la mia vita, ho pensato a quali Paolo ci sono stati nella mia vita, che forse non mi hanno scritto una lettera, ma li ho conosciuti, o forse li ho visti per un breve periodo. E quindi Evelina è stata una di queste persone, i miei genitori mi hanno educato nell'amore di Gesù. Sono stati perfetti? No. Ma ho visto i valori in cui loro hanno faticato, ma li hanno voluti mettere in pratica. Per me loro rappresentano come un Paolo che mi ha scritto una lettera. E potrei andare avanti, perché anche nella chiesa che ho frequentato tanti mi hanno dato così tanto. Potrei nominarveli tutti, eravamo una piccola chiesetta, quindi non è difficile. E andiamo avanti, voglio leggere ancora, di nuovo, però sottolineando altre parti di questi versi. E quindi abbiamo detto, per questo motivo io Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù, per voi stranieri, senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi come per rivelazione. Mi è stato fatto conoscere il mistero di cui sopra vi ho scritto in poche parole. Quindi Anche in questi versi ci sono dei verbi. Noi non dobbiamo sottovalutare soggetto, verbo, predicato, cioè cerchiamo di sempre andare in profondità. Vi sto facendo venire con me come io leggo la Bibbia. Infatti all'inizio c'era, non si capisce quanti colori in questi versi, poi mi hanno detto già non si capisce niente, vai un po' in tilt le persone, quindi anche mio marito sarebbe andato molto in tilt, quindi diciamo sono rimasta umile, mi sono concentrata su un colore, però quello che viene detto è: avete udito parlare per rivelazione, per mezzo dello Spirito Santo, è stato rivelato, secondo il dono della grazia di Dio, concessa in virtù della sua potenza. Queste parole mettono in evidenza che Paolo non parlava da se stesso, ma per mezzo dello Spirito Santo, grazie alla grazia di Dio, per rivelazione. Sono delle cose importanti, perché noi non possiamo andare da nessuna parte senza lo Spirito di Dio. Evelina ha parlato nel suo carattere, nella sua personalità, ma quello che mi è rimasto è stato lo Spirito che attraverso di lei ho conosciuto, che era lo Spirito di Dio, perché lei sceglieva di seguire Gesù, ha seguito Gesù, è venuta in Italia. E quindi penso a questo, al fatto che Paolo, prima di tutto, mette l'accento sul fatto che lui è il servitore di Cristo, lo mette sempre in prospettiva. Io sono qui come Paolo, ma servo Cristo, mediante lui, mediante lo Spirito, io vi sto scrivendo. Non è qualcosa che è mio, ma è qualcosa che è stata una rivelazione che io voglio condividere con voi. E poi dice due parole in particolare su cui voglio che noi ci soffermiamo, e sono annunciare e manifestare. Quindi dice: a me dico che sono il minimo tra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. Quindi parla di annunciare e manifestare. Abbiamo trovato tante volte la parola stranieri, non ho sottolineato anche quello perché sennò veramente dovrei sottolineare tutto il passaggio, ma annunciare e manifestare. Annunciare di per sé non basta, segue anche il manifestare. E il manifestare di per sé non basta, segue anche annunciare. Annunciare significa comunicare una notizia importante, giusto? Quindi noi predichiamo con la parola, ma la manifestiamo. Quindi vuol dire rendere noto con segni o riferimenti diretti, quindi palesare quello che stiamo dicendo. Quindi io predico bene e razzolo bene, giusto? Ma se io predico bene ma razzolo male, la mia predicazione ha un limite e viceversa. E quindi quello che noi siamo chiamati a fare è annunciare e manifestare. Una parola non esclude l'altra. E quindi se io predico, predico prima di tutto a me stesso. Se io annuncio, annuncio soprattutto a me stesso. Quando noi siamo qui riuniti la domenica, ma anche nella settimana, quello che noi facciamo è manifestare, ma anche annunciare, perché abbiamo quella sete di cercare il Signore e di farlo con la Chiesa. E anche alimentare la nostra predicazione. Io sono sicuramente più preparata anche sulla leadership, perché mercoledì abbiamo parlato di questo. Quindi c'è stato sicuramente qualcosa di già ascoltato, ma qualcosa che dovevo sentire nuovamente o di nuovo proprio. Quindi quello che sicuramente è importante è che queste due parole rimangano sempre collegate. E io ricordo che quando ho cominciato a seguire il gruppo giovani di questa chiesa, perché poi è attraverso il gruppo giovani che io ho cominciato a frequentare questa chiesa, ricordo che Letizia all'epoca mi chiamava spesso, no? Mi diceva: Giorgia, oggi vieni all'incontro dei giovani. Sì, sì. Quindi si era creata questa amicizia, ma anche lei aveva quest'occhio di riguardo e di cura verso di me. E una volta mi disse: Giorgia, noi abbiamo la settimana prossima una campagna evangelistica, devi venire, mi raccomando. E io sono cresciuta in una realtà dove evangelizzazioni non ne facevamo, proprio eventi di questo tipo, perché noi vivevamo tutto in maniera un po' più all'interno delle mura. Era una diversa realtà. E quindi io, quando mi ha detto così, ho detto: no, io non sono proprio, cioè non è il mio carattere per le evangelizzazioni. E mi ricordo che lei disse: Giorgio, ma che cosa stai dicendo? Siamo chiamati tutti a evangelizzare. No, ma non così, non, cioè... Allora, sai, penso a quel tempo e penso a come io avevo fatto mio un canto che cantavamo in chiesa, che non vi starò a cantare, però vi dico che cosa dice questo canto, anche se dirvi che cosa dice mi riesce difficile senza cantarlo, quindi vabbè. E questa canzone, questo inno, dice: ci diranno cristiani per l'amor che mostriam, ci diranno cristiani per l'amor, camminando mano a mano camminiam. E diremo al mondo quanto Dio ci amò. Ci diranno cristiani per l'amor che mostriamo. E quindi avevo fatta mia questa identità che bastava manifestare. Non necessariamente annunciare. Ognuno è libero di decidere quello che vuole. Vivevo in questa favola del dire: ognuno è libero. In realtà mi nascondevo nella mia difficoltà ad annunciare. Perché io vedevo Evelina che parlava di Gesù, però... parlava di Gesù alle persone che lo conoscevano, quindi avevo questo impatto. E quindi quando Letizia mi ha detto così, io ho detto: no, e qua c'è scritto così nel canto che cantiamo, l'avevo fatto mio. Però, diciamo, la frase che dice diremo al mondo quanto Dio ci amò, il diremo, sempre l'avevo interpretato, no, ma con quello che mostro, non che devo parlare. Quindi, diciamo, mi ero un po' nascosta in tutto questo. E la cosa che mi fa sorridere e che poi diversi anni dopo il Signore mi ha spinto ad andare in Albania, dove dovevamo annunciare, quindi non è solo manifestare, e poi ho preso la responsabilità del team benvenuto, che voleva dire andare verso la persona che viene per la prima volta in chiesa e parlargli di Gesù, chiedere come hai vissuto l'incontro. E io all'inizio non è che abbia accettato questa sfida perché no, è nelle mie corde, no, questo mi sento chiamata a farlo. Il Signore mi ha proprio costretto, ha detto: sì, Giorgia, devi fare questa sfida, devi viverla. Ma Signore, ma non è proprio una cosa per me? Ha detto: no, lo devi fare. E quindi in obbedienza l'ho fatto. E è stato semplice? No. Ma è stato gratificante, perché... ho sentito che stavo camminando nella sua volontà. E quindi, che cosa voglio dire stamattina? Che a volte ci sono delle cose che noi viviamo rimanendo nella nostra zona di comfort, mentre Dio ci chiama ad altre cose. E, in particolare, pensavo molto alla chiamata che lui ha rivolto ad ognuno di noi. A volte ci dimentichiamo che lui ci ha chiamato per nome, da dove eravamo, e ci chiama ogni giorno perché ha preparato qualcosa per noi, lo abbiamo sentito le scorse domeniche. E quindi quello che vorrei che facessimo adesso, è magari di anche abbassare un po' le luci, vorrei che ognuno di noi abbassasse il capo e chiudesse gli occhi. E vorrei che tornassimo a quel momento in cui ci siamo sentiti chiamati dal Signore. Può essere qualche anno fa, può essere stamattina che il Signore vi ha detto qualcosa, vi ha chiamato per nome. Vorrei che ci concentrassimo proprio su questo, prendessimo un minuto. la chiamata che Dio ti ha rivolto non dipende da quanto tu sei bravo ad annunciare, da quanto sei bravo a manifestare, ma dipende dalla dipendenza che hai dallo Spirito Santo, da quanto lo coinvolgi. Quanto più Gesù è in te, tanto più non puoi fare a meno che manifestarlo e annunciarlo. Non è nelle nostre forze, non era nelle forze di Paolo, ma è mediante la sua grazia e il suo Spirito Santo. I discepoli sono stati chiamati a lasciare tutto e a seguire Gesù. E il Signore dice proprio: seguimi e poi ti farò pescatore di uomini. È nel seguire Lui, nel stare vicino a Lui, che potremo annunciare e manifestare chi Lui è. Solo nel seguire Lui, nel rispondere a quella chiamata. Non è nelle mie forze, non è nelle tue. L'unica persona perfetta in mezzo a noi è Gesù. E io voglio invitarti questa mattina ad uscire da questa zona di comfort che ti sei creato, dove ti basta quello che hai. C'è di più. E se il tuo cuore non riesce a ricordare perfettamente il momento della chiamata, o forse non si è mai sentito chiamato, questo è un buon momento per invitare lo Spirito Santo a parlarti, a sfidarti. E attraverso le sfide che noi riconosciamo, che non è merito nostro, ma è attraverso lo Spirito di Dio che noi possiamo vivere questa vita sulla terra, nella tribolazione, come prigionieri di Cristo, annunciare e manifestare. Io voglio invitarti ad alzare le tue mani, se desideri, preghiera per uscire da una situazione di comfort, oppure per sentire quella che la chiamata sta facendo al tuo cuore. E io pregherò per te. Signore, grazie perché ci rivolgi una santa chiamata. Grazie perché come famiglia scegliamo di seguirti, ma ancor di più voglio pregarti per ogni mio fratello e sorella che ha alzato la mano o che ha aperto il suo cuore in questo momento a te, che possa sentire la tua presenza in modo tangibile, perché tu sei in mezzo a noi. Al di là di quello che noi possiamo percepire o meno, ma tu sei qui, parli i nostri cuori ogni giorno, o forse a volte sei silenzioso, ma è sempre un tuo modo di comunicare con noi. Io ti prego per i miei fratelli e le mie sorelle che possano riscoprire quello che vuol dire essere chiamati da te, riscoprire che c'è di più. Vivere intensamente questa vita sulla terra come tu vuoi che noi la viviamo, come tu vuoi che loro la vivano. Grazie Signore perché non ci lasci da soli nella tribolazione, ma ci rendi prigionieri tuoi, servitori tuoi, e ci rendi santi alla tua presenza. Amen. Amen. E voglio terminare con un'altra parte del, di questo capitolo, che ho letto ovviamente le prime parti, e voglio ritornare sugli stessi versi, sottolineando qualcos'altro. E dice: figli degli uomini, santi apostoli e profeti di lui, vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo, di cui io sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio me concessa in virtù della sua potenza. E questi versi, vediamo che c'è il plurale. Quindi Paolo non sta parlando ad una persona, ma sta parlando alla chiesa di Efeso. Sta parlando a una moltitudine, come eredi. Noi siamo eredi, noi stessi siamo eredi. Stiamo leggendo le lettere di Paolo, lui le aveva indirizzate ad Efeso, ma le abbiamo lette anche per noi oggi. E poi dice ancora: a me dico che sono il minimo tra tutti i santi. Quindi parla al plurale. È stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, per mezzo di Gesù Cristo. E quindi poi dice: per mezzo della Chiesa, che conoscano oggi, per mezzo della Chiesa. Quindi io da sola rispondo alla chiamata, ma non lo faccio da sola, lo faccio con voi, lo facciamo insieme come Chiesa, perché attraverso di noi gli stranieri, che ancora lo sono, possono conoscere, attraverso il nostro insieme annunciare, manifestare, allora altre persone potranno conoscere la bellezza, la rivelazione che c'è nella persona di Gesù. E quindi diciamo ancora: abbiamo la libertà. Vi chiedo, quindi ci parla al plurale, di non scoraggiarvi a motivo delle tribolazioni che io soffro per voi, poiché esse sono la vostra gloria. E lui dice: non vi preoccupate per me, io sto bene. Perché nella tribolazione lui era prigioniero di Cristo. Nella tribolazione ha riconosciuto che su questa terra noi ne avremo. Perché seguire Gesù ha delle conseguenze. È vero, è scomode. Però nel momento in cui siamo nella sua volontà, nel momento in cui noi seguiamo lui, allora lui ci farà anche i suoi testimoni con quello che noi abbiamo. I pescatori avevano il pesce e ieri ascoltavamo durante una predicazione nella conferenza a Napoli che Gesù aveva usato proprio i pesci per far vedere ai suoi discepoli che con quello che avevano lui poteva fare miracoli e quindi ha moltiplicato proprio i pesci. E quindi quello che voglio dirci stamattina, è che con quello che hai, in quello che tu e il tuo bagaglio, tu puoi arricchire la sua famiglia. La Chiesa sei tu e la Chiesa ha bisogno del tuo bagaglio e di quello che Dio sta facendo in te come processo di santificazione. Quello che ho io non è quello che hai tu, perché siamo unici, lo abbiamo detto, ma in questa diversità ci completiamo per amore del suo nome. E come Chiesa non ci dobbiamo scoraggiare quando viviamo tribolazione. Io vi invito anche quando tornate a casa a continuare la lettura, perché i versi che vengono dopo sono meravigliosi come questi. Però è un incoraggiamento che voglio che voi viviate singolarmente, proprio che possiate vivere quelle parole pienamente in quello che state vivendo nella vostra chiamata singolarmente, ma anche come Chiesa che viviamo insieme, La mia vita è stata caratterizzata non solo da Evelina, ma anche dai miei genitori, da ognuno di voi, dalle persone con cui ho fatto dei ritiri, dalle missioni in Albania, dai viaggi, dal servire nel team benvenuto. Qualsiasi cosa io abbia fatto con la Chiesa ha portato benedizione. Quindi, Chiesa, quello che voglio incoraggiarci a fare è a seguire Gesù prima di tutto, a vivere questa relazione, ma a non farlo ma non farlo da soli. Lo possiamo fare insieme, perché laddove sei in un combattimento, qualcuno può pregare per te. O tu puoi avere una parola di incoraggiamento. La Chiesa è fatta per essere l'edificio di Dio. È perfetta? No. I miei genitori erano perfetti? No. Paolo non era perfetto, ma è Gesù che fa la differenza in mezzo a noi. È il suo spirito ed è lì che dobbiamo sempre tornare. E quindi, Chiesa, io voglio fare questo stamattina. Ritornare alla chiamata, al primo amore insieme, singolarmente ma anche come Chiesa, che come Chiesa possiamo vivere questa dipendenza dallo Spirito Santo, perché solo in Lui noi possiamo ogni cosa. E laddove ne siamo in difficoltà, benissimo. Laddove c'è una situazione che non ci piace, che ci porta fuori dalla nostra zona di comfort, benissimo, perché è lì che il Signore si farà trovare, pronto a manifestarci la sua potenza e che cosa Lui vuole fare dentro di noi attraverso il suo amore. Amen. Vorrei che adesso ci alzassimo in piedi e potessimo pregare l'uno per l'altro, con soltanto una mano sulla spalla dell'altro. E vorrei che lo facessimo anche in maniera silenziosa. Poi magari il Signore ispira una parola e ben venga. Anzi, sentiti libero di incoraggiare, per favore. Siamo qui per questo. Però vorrei che adesso noi potessimo prendere un momento e pregare l'uno per l'altro. Benedizione, chiedere allo Spirito: Signore, per cosa vuoi che prego? Perché è così che facciamo Chiesa, è così che ci incoraggiamo, è così che possiamo affrontare anche la settimana. Sapere che qualcuno ha pregato per te oggi, sapere che qualcuno prega per te domani, a me fa così bene saperlo, a voi no. Sapere che non sono sola in quella che sono le mie sfide, sapere che qualcun altro ha vissuto cose simili e vedere come nella loro testimonianza c'è Gesù. Non è nella condotta perfetta o nel parlare perfetto che ritroviamo Gesù. Sì, magari qualcuno sa parlare bene e ci affascina o anche fa cose benissimo, meglio di noi, ma quello che ci rimane veramente è lo Spirito di Dio che si è mosso dietro queste cose. E quindi vogliamo pregare adesso come Chiesa, l'uno per l'altro, e poi concluderemo con un canto.